a cura del sottoscritto Felice Came e di Carlo Liva al mio fianco, senza sigla. Il programma prevede di parlare dei telefonini, dei telefoni cellulari di Guglielmo Doccan, di retorica ed epidemie e delle necessità del nemico.